Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed era da un sacco di tempo, forse circa 20 o 25 anni, che non sentivo più questa canzone. Silver Convention con Get Up and Boogie. Era un bel pezzo in quel periodo. Buona serata a tutti, benvenuti in frequenza. Io sono Flavio Bilato, come sempre in mia compagnia c'è Maurizio Calzavara, che saluto. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Tutto bene in questo martedì 27 settembre del 2011? Sì, dove estate piena, Flavio. Siamo in estate piena. Esattamente. Stiamo rischiando grosso. Siamo in estate piena. Leggevo sui giornali che siamo sempre in pericolo di malattie, perché quando l'estate dura troppo rischiamo di schiantare prima del tempo. Vabbè, comunque noi siamo anche fortunati, Maurizio, perché abbiamo la musica che ci tira su. E quindi, a proposito di musica che ci tira su, in questa serata dove ormai abbiamo abituato i nostri ascoltatori a sentire della buona musica live, chi abbiamo con noi? Abbiamo il gruppo di Stefano Zeni stasera, siamo molto contenti, onorati di averlo. Ecco qua, Stefano Zeni, buonasera Stefano, buonasera anche ai tuoi accompagnatori, quindi salutiamo anche Vanni e Antonio. Buonasera a tutti. Buonasera, ecco qua, che sono rispettivamente alla tromba e alle tastiere. Poi dicevi, scusa Antonio, devi... pensavo... Non volevi dire. E salutiamo anche Stefano Zeni, che è al violino, non è la prima volta che vieni qui nei nostri studi. Un abitué con il suo violino, perché in questa serata presenteremo quello che è il suo ultimo lavoro, che si intitola Passaggi Circolari. Allora, Stefano Zeni, una domanda che ti avranno fatto anche i tuoi collaboratori: perché questo titolo? Questo titolo, diciamo, appunto è il titolo di una canzone contenuta nell'album. Poi mi piaceva particolarmente, mi sembrava rappresentasse in particolare il mio mondo sonoro, e l'ho utilizzata anche per intitolare l'album. Comunque diciamo che il titolo sia della canzone che dell'album si ispira un po' a questa circolarità, sia che vedo un po' nei pezzi che ho scritto, nel senso, quindi ci sono dei cicli ritmici che poi si riprendono, che poi magari variati vengono riesposti in fondo durante i soli. Però questa circolarità è comune anche, non so, alla vita, alla storia, all'universo, diciamo che tutto ciò che diciamo che è conosciuto o anche che non è conosciuto spesse volte è circolare. E quindi anche perché dalla testa la coda poi si incontra, abbiamo formato il cerchio, che poi poteva essere anche visto nella maniera circolare del sasso che cade sull'acqua, che dà questa sensazione di cerchi che continuano ad evadere dall'acqua stessa. Benissimo, allora impareremo anche a conoscere questa musica così particolare di Stefano Zeni, che è un po' un putpourri, se vogliamo, di tutti i generi musicali, quindi un tuffo continuo in piscine diverse, Stefano. Sì, diciamo che appunto potrei dire che è un'esperienza musicale accumulata nella mia vita proprio, diciamo. Ho 36 anni e mi è piaciuto raccogliere tutto ciò che ho ascoltato dalla prima infanzia fino ad adesso. Ma questo non per una questione, voglio dire, di vanto, mi piaceva proprio come tipo di lavoro, far sentire le varie, che poi voglio dire non è stato studiato come lavoro a tavolino, comunque far sentire le varie influenze che hanno caratterizzato la mia vita musicale. Non so, sono partito, mio papà mi faceva ascoltare musica classica, i Beatles, De André, la musica beat. Sono passato dal rock progressivo, sono arrivato al jazz, prima quello più tradizionale, diciamo mainstream, poi quello più moderno, e sono passato attraverso il rock, altri generi come lo ska, appunto siamo stati qui con un gruppo, appunto Isaia e l'orchestra Radio Clochard. Divertentissima quella sera, la ricordo con vero piacere, sì, assolutamente. Ecco, quindi alla fine mi è piaciuto appunto fare un po' una sintesi del mondo sonoro, ecco, a cui appartengo. Sì, tu hai detto che questo album è un frutto di incontri, questo è importante. Frutto di incontri. Sì, incontri sia diciamo metaforici, musicali, sì. E incontri anche di persone, perché appunto musicali, appunto con, sì, con questo pedigree musicale, infatti, tu hai citato. Sì, poi vabbè, diciamo un incontro musicale mi ha anche influenzato, diciamo l'ho anche incontrato personalmente, che posso appunto è stato Jean-Luc Ponty, certo. Che è un po' per me un padre putativo, no, un padre assolutamente. Appunto l'ho conosciuto a Milano durante un suo concerto qualche anno fa al Blue Note, e è stata una persona squisita, per cui quando si incontra un mito della musica e appunto sono riuscito a parlare con lui 10 minuti in un inglese mio stentato e appunto ho consegnato la mia tesi di jazz che anni fa avevo fatto presso il Conservatorio di Brescia dedicata a lui, e lui molto interessato, gli avevo poi allegato dei file audio all'epoca, insomma 7-8 anni fa non erano sicuramente così, insomma anche i livelli di registrazione, la qualità. E dopo questo incontro, dopo mesi, io non ricordavo neanche più questa, mi ha mandato un'email dicendomi, facendo i complimenti per il suono, dandomi alcuni consigli che aveva dato a lui Dizzy Gillespie negli anni 60, ancora sì, quando sì. Lui era cioè, già un genio, ma chiaramente. Quindi, e quindi mi ha fatto molto piacere, perché già mi aveva folgorato sentendolo musicalmente, poi conoscendolo anche umanamente, insomma. Appunto è stato uno di quegli incontri che sicuramente è stato significativo. Lui ha saputo affondere il rock con la musica, infatti, classica, sì, quella con la classica, col jazz, col jazz, è stata un'innovazione totale, sì, sì, arrivare nelle classifiche americane con un disco, certo, di Jean-Luc Ponty non è una cosa semplice. Stiamo già scavando una grande buca per conoscere bene quella che è la musica di Stefano Zeni, però direi che gli ascoltatori hanno bisogno di un'introduzione musicale per poi riuscire a commentare a pieno quello che è la produzione artistica di Stefano Zeni, appunto con questo suo nuovo CD che contiene 11 tracce, poi approfondiremo le varie cose, anche i vari ospiti, i vari musicisti che ci sono stati, che sono passati per di là nei passaggi circolari di Stefano, e quindi direi che potremmo iniziare con un brano che si chiama Tuduppa, spero di averlo pronunciato, perfetto, correttamente. Poi ci faremo anche una risata sopra gli altri titoli delle canzoni, che, delle musiche che propone. È un titolo onomatopeico, perché il pezzo inizia Tuduppa, Tuduppa, e ho trovato questo titolo. Allora lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È un grande pezzo per iniziare a comprendere quella che è la musica di Stefano Zeni, proprio un grande pezzo jazz dove Stefano dava veramente man bassa con il suo violino. È un pezzo che tu hai già presentato così alla chitichella prima dicendo dudupà, perché fa dudupà all'inizio. Quindi non c'erano altre spiegazioni un po' più, come dire, auliche? Era proprio un discorso ritmico, proprio. L'ho pensata così e mi è venuto subito questo titolo che all'inizio era provvisorio, ho detto perché non lasciarlo? Perché andiamo avanti a fare dudupà, dudupà, dudupà e vabbè, comunque è un pezzo simpatico, molto molto impegnato anche come pezzo, quindi una gestione del ritmo abbastanza complessa nell'insieme. Un pezzo in 11 per gli addetti ai lavori, diciamo. Eccolo qua, 11 quarti veloci. Pezzo difficile ma interessante. Prima a microfono spento, Flavio, parlavamo delle piccole influenze o delle grandi influenze. Delle influenze, parlavamo di Weather Report. I Weather Report sotto vanno, amplificano il discorso. Chiaramente è tutta musica di Stefano Zeni, ragazzi, non è musica di Weather Report. Però ci sono dei addentellati, dei punti di riferimento, degli input. Cosa dici, Stefano? Sì, mi fa molto piacere che appunto mi accosti a questi mostri che, voglio dire, stavamo giusto parlando anche noi in auto venendo qui con Antonio e Vanni della musica dei Weather Report e siamo arrivati alla conclusione che è il gruppo jazz rock che ha caratterizzato di più la storia della musica, per cui dopo sono arrivati altri altrettanto bravi, altrettanto validi, però sono stati a livello proprio di gruppo, di genere, una spaccatura. Sdoganato nel senso del discorso. Anche perché ricordiamo che loro non sono nati proprio così come Weather Report, ma hanno avuto grandi scuole, provenivano anche da band molto importanti nel campo del jazz, capitanate anche da mostri sacri, se vogliamo dire. Ecco qua, sì. Short aveva già una band di certo rispetto, che a me è Sin the Body d'Elettrica, il disco più famoso per noi rocchettari, ha sdoganato il jazz con rock. C'è poco da fare. È proprio un nome tutelare dei dischi, secondo me. Sì, andiamo avanti. Allora, come l'hai inventato l'arrangiamento di questo pezzo, Stefano? Voglio capire. Tu hai detto che l'input è partito da questo suono. Sì. Poi l'arrangiamento, questa batteria incredibile, questi stop and go continuativi. E questi, diciamo che mi sono venuti piuttosto naturali, come ti prende sempre in giro Antonio, sì, perché mi dice, ma tu che prima di andare a dormire che cosa fai? Perché... E appunto non c'è stato un particolare ragionamento, nel senso, prima di tutto ho pensato alla frase ritmica e all'unisono iniziale, infatti tutti gli strumenti, violino, sassofono, Fender Rhodes, batteria e basso, fanno tutti la stessa frase. Si mettono tutti in riga. Tutti in riga. Tutti in riga. E poi da lì in poi via fuori tutti. Free in tutti i sensi, libertà totale. Sensi. Per cui c'è questo arrangiamento tra le due parti, ritmiche, appunto, basso e batteria che vanno insieme, e violino e il fiato, appunto in questo caso il sax soprano suonato da Guido Bombardieri, che dialogano in contrappunto. E poi gli stacchi, anche quelli mi sono venuti in mente, probabilmente ecco lì c'è un po' più del rock progressivo con gli stacchetti in mezzo. È vero, hai ragione. Ecco, è lì che appunto vengono fuori le influenze, sia che ho ascoltato, e come mi diceva giustamente Vanni, anche che negli anni ho suonato vari generi, e tra cui questi, quelli elencati prima. Cosa dici, Vani? Suoni ancora? Suono ancora? Ho 10.000 gruppi. Sì, ho visto che suona un sacco di gente. Stefano suona un sacco di gente, veramente una roba incredibile. C'è difficoltà a leggerli tutti. No, poi voglio dire, adesso abbiamo nominato Bombardieri Guido che suona il sax soprano, ma in questo pezzo c'è anche Eros Cristiani, Fender Rhodes, e poi ancora c'è Davide Deiana al basso elettrico, e poi anche insomma un batterista mostro conosciuto, Gio Damiani. Sì, qui c'è Gio Damiani, e appunto nel disco hanno collaborato con me veramente in amicizia, sono stati tutti musicisti disponibilissimi e hanno creduto tutti nel progetto. E appunto i batteristi sono Gio Damiani e Ella De Bandini, che è un mostro, Guccini Docet, il batterista fidato collaborato di Guccini da un sacco di anni. Sì, beh, collaborato con De André, con Guccini, con Albano, con Mina. Collaborato con tutti. E con altri, penso, con 300-400 artisti più o meno. Diciamo che non è più un bambino, ma no. sa fare il suo lavoro molto bene ancora. Quindi diciamo è stato bello anche lo scambio tra Gio Damiani e Ella De Bandini, hanno sentito tutte e due i provini, diciamo, del disco prima di registrarlo e hanno scelto i pezzi, perché io sapevo già che tutte e due andavano uno più in una direzione e l'altro più nell'altra, e si sono veramente hanno scelto i pezzi, sono divisi i pezzi, sì, ma in maniera perfetta, nel senso che quei tre che ha scelto Ella, abbiamo fatto l'ospite in tre pezzi, e Gio Damiani ha scelto gli altri sei, ma senza neanche mettersi d'accordo, per cui è bello anche questo, che ognuno ha scelto i brani dove più si sentiva della serie, tutti insieme senza litigare, sì, no? in questo caso per cui diciamo che il Bandini è stato più per la linea melodica, sì, mentre Gio Damiani è un po' per i ritmi irregolari, diciamo, irregolari di fantasia, sì, diciamo così, molto jazz, per la poliritmia, mentre la De Bandini sono magari anche ritmi di quattro quarti, però arricchiti dal suo tocco, logicamente, certo. Particolarissimo e riconoscibilissimo. Benissimo, visto che stiamo parlando di suono, visto che al principio di trasmissione abbiamo detto ai nostri ascoltatori, Stefano Zeni è arrivato con degli amici, non solo con degli amici, con degli strumenti che sono ancora più che amici, ecco, e quindi con violino, tastiere e tromba iniziamo a conoscere anche la parte live, proponendo che pezzo, Stefano? Sì, il pezzo è Migrazioni, che è l'apertura del CD Passaggi Circolari, il primo pezzo proprio. Benissimo, ce l'ascoltiamo, sì, qui in diretta da Blu Radio Veneto. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato un altro pezzo fantastico. È bello anche. Noi siamo anche dei privilegiati, Maurizio, sì, è vero? Sì, perché sì, siamo proprio qui davanti agli artisti. Quasi il concertino fosse solo per noi. In realtà è anche per i nostri ascoltatori che ci ascoltano sempre più incuriositi da casa. E niente, ci danno anche il loro cuore per questi live che facciamo così volentieri, presentando sempre musica di nuovi artisti e anche di artisti che insomma hanno già camminato molto nell'ambiente musicale. E diamo ancora il benvenuto a Stefano Zeni, che ci ha fatto sentire questo pezzo dal suo ultimo lavoro che si intitola Passaggi Circolari. Questo era Migrazioni con la tromba di Vanni e le tastiere di Antonio. Ringraziamo anche loro due per essere venuti qui e per farci grazie appunto a voi, grazie. A proposito di questo, sì, tu Flavio non hai visto, ma io ho visto il maestro Antonio che ha dato l'input al maestro Vanni e il maestro Stefano. Sì, sì, perché c'è un dialogo. Un secondo, lasciando a loro di fare un piccola jam session per di loro. C'è un dialogo continuo, sì, perché anche se il disco è intestato a Stefano Zeni, è da dire che come il grande protagonista lascia molto spazio anche ai suoi musicisti. No, è anche più che doveroso, visto che sono musicisti veramente di alto livello e sono contento. Però penso che proprio sia una particolarità anche dell'ambiente jazz, nonostante il trio sia intestato a qualcuno, certo, poi naturalmente le partecipazioni sono di tutti i musicisti che ne fanno parte. Il gioco del piano di Antonio mi viene in mente una cosa, Stefano: la migrazione, il movimento. Il piano dava il movimento, mente questo, e dava il movimento, dava il movimento anche voi due praticamente. Sì, poi l'elaborazione chiaramente si ampliava sempre di più, perché il jazz, come giustamente ha detto Flavio, è una continua improvvisazione. Certo. Sì, bisogna anche capire che qui siamo in tre, mentre sul disco siamo almeno in sei in questo pezzo, se non ricordo male forse. Adesso ti li conto io, ci sei tu, poi c'è Mario Arcari a Lobo e poi Antonio Principe al piano, Davide Deiana al basso e Gio Damiani ancora presente alla batteria. Sono i cinque. Vabbè, comunque posso confermare che avendo ascoltato il pezzo sembrano molti di più di 5, no? Quindi, assolutamente confermato. Per cui effettivamente la dimensione, diciamo, tornando a quanto diceva prima Maurizio, è la dimensione del trio lascia un'ulteriore libertà. Già sul disco ci sono spazi giustamente per tutti i solisti, certo, i musicisti che hanno partecipato, e nel live anche durante la presentazione che sarà ufficialmente fatta il 15 di questo mese, perché il disco è uscito prossimo mese. Poco, appena uscito, diciamo che noi abbiamo quasi un'esclusiva, Maurizio. Sì, esattamente, un'anteprima assoluta. È sicuramente la prima anteprima radiofonica. Ecco, e questo ci fa un enorme piacere, anche perché Stefano, quando è venuto l'ultima volta, ha detto: vi farò ascoltare quello che sto preparando. Infatti è vero. E siamo stati davvero fortunati ad ospitarlo per prima nella nostra nel nostro CD player privato di casa e poi poterlo anche divulgare così in anteprima all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Quindi Passaggi Circolari, Stefano Zeni, Migrazioni. Per conoscere qualcosa di più di Stefano Zeni, abbiamo anche un sito da proporre agli ascoltatori. Sì, il mio sito è www.stefanozeni.com. All'interno di questo sito si possono vedere... Sì, ci sono, diciamo, gli appuntamenti musicali e appunto ci sono anche degli spezzoni di tutti i brani di questo nuovo CD, vari link, foto, audio... Certo, un po' di tutto. E anche tutte le partecipazioni. Le partecipazioni. Sono scritte tutti i musicisti che hanno collaborato, e qualcuno l'abbiamo già ricordato. I foto compromettenti. Anche quello. Appunto, qualcuno l'abbiamo già ricordato, abbiamo detto prima che Migrazioni suona Mario Arcari, altro nome conosciuto della musica italiana e non solo, ha collaborato anche lui con Fabrizio De André, con Ivano Fossati, con Moni Ovadia, con Bach Morris e con tanti altri musicisti anche d'avanguardia europea. E, appunto, qui c'è Antonio Principe con me, appunto. Vanni Lombardi, e poi ricordiamo gli altri, abbiamo ricordato prima Guido Bombardieri, certo. C'è appunto Davide Deiana, appunto l'abbiamo nominato prima al basso elettrico, sì. Maurizio Giannone alle percussioni, appunto non dimentichiamo anche dell'apporto proprio delle percussioni, e poi altri due tastieristi che hanno fatto gli ospiti con il Fender Rhodes, oltre ad Antonio che ha suonato tutto i pianoforti, chiaro. Che sono appunto Eros Cristiani e Diego Maggi. Ma la dimensione poi del trio di qua, di adesso, sì. Se è molto allargata, sì, erano in cinque là, però sì, non sembrava essere in tre questa sera, molti di più di tre. Infatti Antonio fa tutto il resto. Antonio teneva la base di basso, sì, anche. Faceva i bassi, Antonio. Quando abbiamo fatto le prova l'altro giorno, sì. Antonio doveva fare solo la parte del pianoforte, ma non resisteva. vedi? Adesso devo metterci un basso, perché manca qualcosa. No, è meno male che l'ha messo, perché effettivamente... Io ho capito perché Vanni diceva prima di foto con promottenti, perché ti rischi di farti male con l'archetto sul naso, no? Quindi mi sto riferendo a una foto che è proprio come presentazione del sito, che ricordiamo essere stefanozeni.com. Sono proprio lì con l'archetto, sì, sì, sì, tagliato, no, è pericoloso, sì. Poi in mezzo i capelli, perché sì, non è che sia calvo Stefano, no, no, no, assolutamente ne ha parecchi. Stefano, l'idea di questo progetto da quando è nata, quanto tempo che è nel cassetto li poni le cose? Sì, io sono una persona lunga nelle decisioni, no, nelle decisioni no, nella realizzazione preferisco fare le cose con a mio avviso certo, con calma, per curarle, e appunto questo, il parto di questo CD è stato piuttosto, diciamo, anche lungo, non travagliato, nel senso comunque lungo, perché poi nel frattempo, sai, le mille collaborazioni, appunto, il discorso sia musicale sia lavorativo per me sempre nella musica, non avevo tutta la giornata a disposizione per qualche mese, che è quello che sei. Se ne abbiamo mille, diciamo una decina, sì, dai. Mille per dire. Sono già tante, dai. Sì, hai ragione, una decina. E per cui, diciamo, la realizzazione pratica è degli ultimi due anni e mezzo. Diciamo, quindi finire gli arrangiamenti, chiamare i musicisti, far ascoltare i provini che avevo fatto prima io, MIDI, avendo scritto tutte le parti, e poi registrarlo. E l'idea c'è da più tempo, sicuramente. E infatti, i pezzi raccolti in questo album, è il più antico, se possiamo usare questa parola, risale al 2003-2004. Il più nuovo, diciamo, 2009-2010, per cui c'è proprio si sentono anche effettivamente stili diversi all'interno del CD, ma li ho lasciati apposta, nel senso che comunque non volevo appunto caratterizzare troppo in una direzione o nell'altra, non mi piace mettere etichette o mettere barriere, alla fine mi rappresentava me negli ultimi 6-7 anni, diciamo così, e ho voluto poi raccoglierlo in questo album, che è effettivamente il primo album solista. Solista, sì, diciamo, a mio nome è il primo. Ho fatto un lavoro precedentemente, due anni fa, con una flautista, avevamo composto insieme una flautista che ricordiamo, Angela Citterio, il primo flauto dell'Orchestra Pomeriggi Musicali di Milano, flautista riconosciuta non solo a livello nazionale, e appunto abbiamo composto le musiche di una commedia musicale che si titola La Piana dell'Anguane, su un libretto di Raffaella Benetti, che anche lì è un lavoro molto particolare, quindi diciamo, chiamiamola commedia musicale, opera non solo per bambini, anche se il tema è una fiaba, e l'abbiamo rappresentato qualche volta, e anche lì, diciamo, mi ha dato molte soddisfazioni in quanto coautore, abbiamo composto, sì, certo, un'ora di musica per 7-8 strumenti, tutta arrangiata, e io e lei, ecco, per cui, però come lavoro, diciamo, tutto incentrato sul tuo nome, questo, ecco, su mie composizioni esclusivamente, arrangiamenti miei, diciamo, produzione artistica, certo, ecco, certo. È questo. Sì. Bene, allora adesso un altro pezzo che ascoltiamo da disco, così prendiamo un po' di fiato, sì, come direbbe Vanni, alla tromba. E ascoltiamo un pezzo da disco che si intitola Chad Africa, sì, e poi penso che gli ascoltatori capiranno ascoltando perché si chiama così. Blu Radio Sera. I'm a luminae. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed è stata questa una delle rare tracce dove si sentono anche le voci, oltre a sentire gli strumenti musicali che si rincorrono come l'antilope che viene rincorsa dal leone, tanto per dare un po' un elemento in più di questa canzone, di questa musica che si intitola appunto Chad Africa. Allora, ma il Chad Africa, sei tornato dall'Africa con quello che chiamano il mal d'Africa, quindi quel desiderio di ritornarci, oppure... Non sono mai stato, però mi ha sempre attirato il mondo africano, non solo quello musicale sicuramente, non solo quello, appunto libri, racconti, documentari, mi piacerebbe andare, però ecco, finora non sono mai stato, per cui ho fatto un po'... senza appunto fare paragoni con dei mostri anche lì nel campo letterario, come Salgari che aveva scritto appunto i libri sui pirati, comunque non è mai mosso stato in Malesia, ecco, esattamente. Dire. Quindi mi sento un po' come lui in questo, pur essendo nel mondo globalizzato, non ci andrò prima o poi. E l'Africa musicalmente c'è, perché c'è questo momento africano ascoltabilissimo durante il pezzo, assolutamente. Sì, e... appunto questi ritmi, queste voci, queste percussioni sono fondamentali. Anche lì mi è venuta la prima idea, le prime due idee ritmiche, poi lì si sono sviluppate e sono andate a finire in direzione Africa. Poi diciamo. C'è Antonio che gioca molto bene. Antonio ha fatto un solo molto bello con il suo piano a coda. Racconta della solo. È difficile. Vai verso il microfono. Ma mi ha chiesto di fare la solo. Allora, premetto che quando c'è da suonare con Stefano, per me è la libertà. È la libertà. Totale. Essendo abituato a suonare esattamente in tonalità, con Stefano no. Con Stefano tutti questi discorsi decadono, perché con Stefano bisogna andare a ruota libera. Per cui mi ha chiesto, ho ascoltato il brano, ho cercato di inserirmi al meglio di quello che so fare, insomma, ecco. Quindi sei andato avanti senza nessun problema. Beh, senza nessun problema. Ci sono stati. Comunque le labbra grosse aiutano. Antonio ha delle labbra molto grosse. No, ho cercato di seguire problemi superabili, dai. Sì, ho cercato di seguire il ritmo. Il ritmo fondamentale in quel brano. No, ma è entrato sicuramente nel mondo, perché i risultati si vedono e si sentono. Esattamente. Sì. Ecco, tra le altre cose, bisogna ricordare che questo disco è anche prodotto da un'etichetta tedesca. Sì, che ha visto anche protagonisti anche altri artisti molto importanti. Sì, un'etichetta tedesca che si occupa di jazz europeo da più di 25 anni, quasi 30 anni ormai. E appunto il suo, anche qui la storia, insomma, mi ha colpito molto, perché una volta che avevo in mano il master dell'audio del CD, ho detto, prima di autoprodurlo, ho detto faccio un tentativo con varie etichette che potevano essere vicine a, più o meno vicine, insomma, a questo genere, certo, meticcio, diciamo così, perché appunto di genere proprio non si può parlare, però sono andato in direzione jazz, world music, diciamo così. E la cosa positiva è che soprattutto dall'estero ho avuto diverse risposte, quindi mandavo un CD e avevo comunque una risposta, cosa che qua in Italia non succede. Infatti io ho detto soprattutto all'estero, per non dire solo all'estero, ecco, perché in Italia, senza far nome, ho provato con due etichette abbastanza conosciute e mi hanno detto, non prendiamo in considerazione nessuno, senza ascoltare niente, senza... Non li critico, voglio dire, ognuno poi fa le proprie scelte, però ecco, all'estero non tutti, però comunque molti, dagli Stati Uniti al Belgio, all'Inghilterra e appunto alla Germania, mi hanno comunque risposto. Quindi hanno sentito il disco? Sì, hanno sentito il disco e gli è piaciuto, però alcune tipo in Belgio mi hanno detto, siamo una piccola etichetta, ci occupiamo solo di artisti del Belgio o che anche italiani, però che gravitano intorno a Bruxelles. Quindi non però è hanno, risposto, hanno risposto. Quindi... Dall'America è assolutamente... interessati al genere, però c'erano dei problemi contrattuali di spedizione CD, spese, l'etichetta era un po' piccola anche lì, per cui non e appunto anche dall'Inghilterra risposte simili, comunque molto gentili, dalla Francia diciamo un po' più sintetiche, però ci sono state anche dall'Italia, comunque, diciamo, le risposte ci sono state, però mi ha fatto capire, anzi non ho fatto neanche in tempo a mandare il materiale, quindi certo. E comunque bisogna sputare nella nazione dove siamo, voglio dire, però comunque ti hanno risparmiato almeno la spedizione. È vero, mi ha risparmiato la spedizione. E questo è Vanni che fa sempre il pelo, sì, sul, anche sul francobollo, no? In questo caso. E sì, tornando appunto all'etichetta EVP Music che sì, poi ha prodotto il CD, è stato bello perché gli ho spedito, abbiamo mandato proprio una lettera, senza neanche telefonare, abbiamo mandato una lettera scritta al computer con allegato il master del CD in inglese. E dopo una settimana, che io sono rimasto stupito anche di questo, mi telefona il titolare dell'etichetta, il signor York von Prittwitz, che appunto è l'etichetta si chiama EVP, che sarebbe YVP, che sono gli iniziali del suo nome. Mi ha chiamato in un inglese, il mio stentato, il suo un po' meglio, ma comunque diciamo non proprio perfetti tra tutti e due, diciamo. C'è stato un dialogo simpatico e mi ha detto che gli era arrivato il CD 2 giorni prima, il giorno prima l'ha ascoltato, e poi è andato a fare un viaggio, è tornato e mi ha chiamato subito perché dice non è propriamente jazz, però mi è piaciuto, mi ha colpito, e se tu sei d'accordo, è un brutto momento per la discografia, però possiamo parlarne per produrlo, produzione ed esecutiva, diciamo, certo, in quanto logicamente, cioè, produzione artistica, il CD era già finito, però ecco, per quanto riguarda la distribuzione, l'editoria, ecco. E niente, la settimana dopo ho preso, sono andato in Germania, abbiamo parlato insieme, una persona squisita che tra l'altro verrà il 15 ottobre alla presentazione del CD, quindi da qui si capisce anche l'interesse di questa persona che ha visto molti artisti, in quanto la sua etichetta ha prodotto 13 o 14 dischi di Pier Annunzi, tanto per fare un nome diciamo importantissimo nel jazz europeo, perché non solo italiano. E poi tra le varie produzioni c'è anche un disco in quintetto con dei musicisti tedeschi a nome di Enrico Rava. Ci sono ospiti nei vari CD, magari non come protagonisti, però ospiti ci sono, c'è Paolo Fresu, c'è Trovesi, Gianluigi Trovesi. Ci sono dei dischi di Franco D'Andrea. Ci sono dei dischi di Franco D'Andrea, giusto, in catalogo. Ma comincia a essere una garanzia completa di acquistare questo Gianni Basso. Ecco, facciamo un po' di pubblicità, Vanni. Ho visto. No, è assolutamente interessante. Costa pubblicità. Sì, lo si può trovare, diciamo, già che siamo nel piccolo momento pubblicitario. Si trova sicuramente, c'è già online, quindi su iTunes, su Amazon, su CD Baby, insomma su tutti i portali, sia a livello fisico che a livello di MP3 da scaricare. E fra poco abbiamo avuto qualche piccolo problema naturalmente con la distribuzione italiana, perché in Giappone è già venduto anche nei negozi. Perfetto. Ecco, vedi? E il titolare dell'etichetta mi ha fatto notare questa cosa. E quindi però dovrebbe presto essere almeno nelle feltrinelle, insomma prima della presentazione ci sarà, ecco, quindi certo, per chi volesse acquistarlo fisicamente in catalogo. Bene, o va in Giappone o lo ascolta, ecco, praticamente. Ho capito. Sì. Vabbè, quindi passaggi circolari. Ricordatevi questo titolo, ricordatevi Stefano Zeni, se volete vedere anche come è fatta la copertina, appunto nel sito stefanozeni.com è anche segnalato questo, e anche si possono ascoltare ancora delle anteprime riguardo ai pezzi che stiamo proponendo. Tra altre cose, a proposito di scaricare ed ascoltare, noi amiamo anche registrare le nostre dirette e poi mettere a disposizione anche agli ascoltatori per capire anche e carpire quella che è la dimensione live di Blu Radio Veneto e dei musicisti che vi partecipano. E a tal proposito ringraziamo e salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che organizza i nostri live sempre praticamente. Sì, lo saluto anch'io, perché ho avuto modo di conoscere una persona squisita. Certo. Mi ha detto che avrebbe non poteva essere qui stasera, ma sicuramente sta ascoltando. Sì, sì, è qui con noi col cuore. Esatto. Sappiamo che ci ascolta. Ciao Alberto. Ciao. Bene, Alberto. Allora approfittiamone di un altro pezzo live. Allora, sì. Cosa ci fate di bello? Sì, adesso eseguiremo un valzer che si intitola Dolcemente Complicata. Prima c'è appunto un'introduzione del maestro Antonio Principe, seguito poi dal pezzo vero e proprio, come è sul CD. Un brano tonale, melodia pura. Bene, ascoltiamolo allora. sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E come diceva Antonio, il nostro tastierista, questa sera diceva melodia pura. Esattamente. È vero, è proprio questo, questa atmosfera che si è creata. Alle 10 di sera va anche bene, perché sì, diciamo che ci sono delle atmosfere molto, come dire, agitate, se vogliamo dire, con tutti questi controtempi, ma sì, c'è anche spazio per queste musiche così, diciamo, dolci e soavi, e che comunque nascondono un qualcosa di più che i nostri ascoltatori dovranno assolutamente carpire, naturalmente ascoltando questo disco. E come si fa per ascoltarlo in tutta tranquillità? Comprarsene una copia, anzi, diciamo, comprarsi l'originale, perché la copia potrebbe prestarsi, prestarsi. Diciamo, almeno uno per nucleo familiare. Almeno anche uno per nucleo, dai, familiare. Non sono contrarissimo, però insomma. No, intendevo copia nel senso di. Sì, l'avevo fatta. Poi magari qualcuno, sai. Qualcuno sente copia, dice, ah, io subito, l'ho già fatta. Subito si mette la mascherina nell'occhio sinistro e diventa subito un pirata, ecco, per l'occasione. Comunque, passaggi circolari, lo stiamo conoscendo sempre di più, e quindi stiamo conoscendo il violino di Stefano Zeni. Questa sera è venuto con due amici, Vanni e Antonio, rispettivamente alla tromba e alle tastiere, che incontriamo anche all'interno di questo disco che stiamo ascoltando insieme. Posso dirti una cosa, Stefano, anche a Vanni e Antonio? Questo mi sembrava anche un pezzo che di derivazione folk, a mio parere. Sicuramente c'è anche... C'è qualcosa di folk, sì. E posso azzardare qualcosa di, sì, canto gregoriano anche assieme. Sicuro, cioè, mi fa piacere che tu senta varie influenze. Varie influenze, appunto, ecco, sì. come dicevi, il canto gregoriano l'ho studiato, l'ho ascoltato un po', non diciamo magari in molto. Però questa melodia... in alcune cadenze finali, sì. Sì, qualcosina. E il folk, c'è. Sì, è anche il folk. Il folk, sì, sicuramente. Tra le varie collaborazioni, appunto, sono in un... con un gruppo, si chiama Corimè, loro sono siciliani, per cui si fa molta musica del Mediterraneo. Certo. Poi con un altro gruppo, si chiama La Compagnia dell'Avvocata, facciamo pizziche, tarantelle, pezzi folk, soprattutto dell'Italia meridionale. E questa tromba di Vanni dava, sì, un certo senso alle cose, dava una colorazione particolare, sì, al pezzo, secondo me. Vanni, cosa dici? Facciamo parlare il maestro Vanni Lombardi. dico che mi sento poco perché c'ho le cuffie, però... Ma ti senti bene? Però, sì, però è importante, insomma, che qualcosa si senta. E io sento. E poi se sentite voi va bene lo stesso. No, ma dicevo della tromba, sì. Vanni. Della tromba. La tromba, io penso a... In questo pezzo io penso a un angelo che accompagna questo violino che suona. Che e poi Antonio... L'angelo il violino, né? E forse l'angelo è il violinista. Sei tu l'angelo. E poi Antonio che colora sotto. Che dà e Antonio che colora assolutamente. Il nostro, sì, pittore. Sì, sì, sì, sì, che crea questa atmosfera di paradiso. Esatto. Perché per esserci l'angelo. In questo caso paradioso, nel senso che il paradiso delle rame. È una cosa deliziosa e quasi... Non so come dire, è molto delicato suonare questo pezzo qua, uno ha quasi paura di far male a qualcuno, no? Deve stare proprio molto delicato. Io non so adesso voi come avete sentito il mio strumento, però io cerco di essere il più delicato possibile, anche se mi piacerebbe... suonare di più, perché è più facile suonare con più grinta, no? Sì, soprattutto con uno strumento come il suo. Strumento come il mio, esatto. Ma diciamo che durante la pianificazione della trasmissione qualche nota che manca dentro lo strumento. Sì. E questo succede purtroppo anche ai più grandi. Sì. Però diciamo che nel jazz, dai, sono altre le cose che contano. Comunque, per continuare a parlare bene di Vanni Lombardi, ricordiamo che preparando la trasmissione, durante la telefonata con Stefano Zeni qualche giorno fa, dicevo, ma ci sarà qualche problema per il microfono per la tromba, perché dicevo, ci sarà una potenza, fa, non preoccuparti perché Vanni sa essere di una delicatezza. Allora mi ha rincuorato. Sì. Questo volevo dirtelo di fronte anche a tutti gli ascoltatori, perché è stato veramente un complimento, perché la tromba, suonarla alla tua maniera è davvero una cosa. E non sono tanti che la suonano così. Ecco. Sì, delicatamente, delicatamente. Sì, perché suonarla forte, poi quando c'è da suonare, la suona forte. Mm. Però quando c'è da stare delicati, non in molti riescono a stare indietro con uno strumento, con un'emissione come quello della tromba. Col violino è molto più facile suonare piano, e con la tromba è più difficile. Vediamo, sono le 22 e 3 minuti prime, vediamo di capire un attimino quelli che sono i vostri gusti musicali. Immagino che si spazierà nel jazz, però facciamo qualche nome di qualche personaggio importante che hanno influenzato la vostra vita artistica. Partiamo anche dagli anni 30, se necessario. Vai Vanni, partiamo da Vanni. Visto che hai già parlato al microfono, è già caldo per te, eccolo qua. Personaggi importanti che hanno influenzato la mia vita artistica, per primo Bach, che risale un po' di tempo fa, però comunque, a parte che Bach quando era vivo non era molto apprezzato, come invece Handel, il suo contemporaneo, e poi è stato riscoperto più tardi, non è stato molto apprezzato proprio perché aveva questo qualcosa in più, aveva qualche cosa in più di veramente rivoluzionario da un punto di vista della spiritualità della musica, credo. E quindi anche della modernità della musica, perché penso che siano le due cose che vanno di pari passo. In certi casi si pensa alla musica contemporanea come musica evoluta, ma non è proprio detto, cioè, quindi dipende proprio dal tipo di musica che si propone, non dal periodo, dal barocco, dal contemporaneo, eccetera. Ecco, e comunque questo autore è un autore che infonde grande ispirazione su vari piani, veramente, su vari piani della vita, diciamo. Certo, no? Non solamente di musica. Di ascoltare, sì. Ci sono anche molte composizioni che si possono ascoltare in certi momenti di leggerezza, diciamo, in cui uno sta lavando i piatti, magari, e altri in cui uno vuole farsi trasformare, lasciarsi trasformare da quello che sente, no? E questo è un po' la sua caratteristica principale, no? questa capacità di riuscire veramente a trasformare gli ascoltatori. Da un punto di vista invece tutta la musica barocca sento che ne parli con grande entusiasmo per questo. Sì, anche sì. Keith ha messo con i Nice, ha molto apprezzato i concerti di Brandeburghesi. Sì. Quindi, da rocchettaro come sono io, dovevo citare Keith ha messo i Nice. Sentiamo anche Antonio. Antonio, vai. Allora, per quanto mi riguarda, io a me piace citare questi tre grandi musicisti: che sono Bach, Mozart e Beethoven. Bene, trio, proprio. Secondo me la musica deriva da questi tre grandi musicisti. Abbiamo sbagliato tutti il lavoro che facciamo. Facciamo jazzisti. Esatto. No, ma c'è anche ma quello lo facciamo per soldi. E io faccio il classico. Certo. Però esatto. Altrettanto grandi musicisti nell'ambito del progressive citavano sempre anche grandi maestri della musica classica. Sì. Il tutto sì, Bach, sì, Beethoven, sì, sì, e Mozart. Sì. Poi dopo tutti gli altri musicisti. Sì, sono d'accordo anch'io, sì, comunque sì. Come origine se siamo lì. Comunque la musica classica io penso che vada presa con le pinze, nel senso che bisogna ascoltare quello che serve a una persona, e se uno non sa che cosa gli serve, vada da qualcuno che sia, che ti comprende, che riesce a capire come sei fatto e quello che hai. Uno psicologo musicale ci quello vuole che, perché poi la musica serve. Si dà perché si è presa veramente una fonte, una miniera incredibile, e quindi in uno di questi tre musicisti troverà riscontro. O Bach, Beethoven o Mozart. Vabbè, si dovrà trovare. Diciamo in Mozart la gioia, no? Eh sì. Gioia. Mozart, sì, non si, Beh, aspetta un momento, poi c'è Haydn, il concerto per tromba di Haydn, che praticamente eccolo qua, Telemann dove me lo lasci, Telemann. Eh? E Telemann dove lo lasci. Ah, vabbè. Cioè, è vero te che collabori con scriviti dove me lo metti, Andrea Orakmanio. Adesso stiamo spaziando. Vabbè. Allora, sì, ascoltiamo un altro pezzo del disco, visto che sono le 22:08 minuti primi, quasi 9. Abbiamo tempo per ascoltare ancora qualche pezzo sia da disco che live, e quindi direi che potremmo far ascoltare giusto quella traccia che dà il nome anche al disco, che si intitola per l'appunto Passaggi Circolari. Eccola qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Passaggi Circolari, è tratto dall'omonimo album. A presentarcelo c'è Stefano Zeni, che è anche il protagonista di questa serata, è venuto a trovarci assieme ai due amici Vanni ed Antonio, che hanno suonato anche all'interno di questo disco che stiamo presentando, appunto Passaggi Circolari. Stefano, vuoi citare tuo fratello, giustamente? Sì, diciamo che prima ho elencato tutte le preziose collaborazioni degli amici musicisti che hanno collaborato, e nell'ultimo brano effettivamente non ha suonato fisicamente, ma si è occupato di tutte le elettroniche mio fratello Massimo Zeni, e infatti è un pezzo un po' particolare, chi prenderà il CD, voglio dire, oppure chi verrà live potrà ascoltarlo. E si intitola Alone o Alone, come mi faceva giustamente sì. C'è un po' questo gioco di parole che ha significato in ogni caso, e appunto io ho fatto una traccia di violino tutto pizzicato ad accordi, e tutto il lavoro elettronico sotto è stato fatto da mio fratello, sì. Allora salutiamo anche Massimo. Sì, Massimo. Benissimo, allora mi sembra che abbiamo detto tantissime cose riguardo a questi passaggi circolari di Stefano Zeni. Chi ancora vuole assaporare un po' della sua musica può visitare il sito www.stefanozeni.com e ascoltare anche in anteprima alcuni estratti, diciamo, in versione MP3 di quelli che sono le musiche che abbiamo presentato. Prima, Stefano, ricordavi il live, vogliamo dire dove ci sarà la presentazione? Sì, questo è importante, appunto la presentazione ufficiale sarà in teatro, presso il Teatro Centro Lucia di Botticino, che è un centro a pochissimi chilometri da Brescia, dove c'è un teatro molto attivo, e appunto il live sarà alle ore 21 di sabato 15 ottobre, ripeto, al Teatro Centro Lucia di Botticino, provincia di Brescia. E ingresso gratuito, per cui voglio dire, se anche dal Veneto qualcuno volesse avventurarsi verso la Lombardia non è distante, diciamo, ecco. Che non siamo lontani, no, visto che anche voi questa sera siete venuti qua, quindi le distanze si superano, in questo caso, anche perché se sei stato fino ad Ulm per registrare quindi in Germania, vabbè, saranno quei 600 chilometri, circa 600 chilometri, ecco. Sì. Poi uno può prendere l'occasione di andare al lago lì, perché se va avanti questo clima, il 15 ottobre i tedeschi sicuramente fanno il bagno, gli italiani, i padovani non lo so, è per quello che il produttore viene giù per il 15 d'ottobre, infatti ha chiesto subito ieri, ma c'è bel tempo lì in Italia, ho detto, sì, bel tempo, si nuota, ha detto, ma noi magari non tanto, però qualche tedesco, qualcuno del nord, ecco. Sicuramente ci sarà. E comunque al live ci tengo a dirlo che ci saranno quasi tutti i musicisti che hanno partecipato la registrazione, diciamo, a parte un paio, appunto Ella De Bandini che suona con Guccini proprio quella sera lì. Vabbè. Sì, Eros Cristiani, che anche lui è impegnato in tour, un po' con Vecchione, un po' una trasmissione televisiva. Tutti gli altri ci saranno. Sono presenti, Vanni Lombardi, Antonio Principe, Mario Orcari e tutti gli altri, insomma, Gio Damiani. Bene, allora se vi siete persi qualcosa rinnoviamo sempre l'appuntamento con il sito, oppure anche con la possibilità di riascoltare questa trasmissione tramite i podcast che mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori. Non solamente di podcast però si vive, perché all'interno di Facebook nei prossimi giorni ci saranno anche le foto che abbiamo scattato in occasione. Siamo in radio, si ascolta tutto. Sì, certo, si ascoltano anche le foto, è vero. Comunque diciamo stenta arrivare fino in Lombardia, c'è anche un appuntamento a Rovereto. È vero. Ah, ecco. Che se uno stenta arrivare in Lombardia, forse stenterà anche arrivare a Rovereto. E sì, perché Rovereto in salita poi. E si chiama anche La Brace il posto, perché se arriva lì... Bel nome. Sì, no, suoneremo anche il 10 novembre, esattamente questa formazione in trio in versione acustica in un jazz club, che si chiama La Brace, è molto interessante come programmazione storica, quindi... E poi, già che ci siamo, ricordiamo anche un appuntamento che c'è a Pavia, dai, con tutto il gruppo, anche lì, a Spazio Musica, altro locale famoso, molto famoso, certo, non solo a Pavia, il 27 ottobre. Comunque sul mio sito c'è indicato. E se c'è qualcuno che ci sta ascoltando questa sera e ha piacere di farvi suonare da altre parti, siamo sicuramente disponibili e contenti. Ecco, disponibilissimi al contatto. Certo. Benissimo, allora facciamo un altro pezzettino live. Sì. Cosa ci proponi, Stefano? Dunque, ora faremo Sguardi, che è, appunto, è un brano ritmato, diciamo, tra quelli. È una curiosità, è il primo brano che ho scritto di questo album. Quindi è il più vecchio. Il più vecchio, deve essere del 2003-2004 massimo, probabilmente del 2003. E lo stappiamo questa sera. E lo stappiamo, sì. Bene. Qui c'è Anima Rock. Sì, qui c'è Anima Rock. Sì, c'è anche un solo di basso elettrico di Davide Deiana in tapping, quindi veramente moderno, rock, come dice Antonio. Ecco qua, ascoltiamolo. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. A un certo punto Maurizio, uno tira fuori il cartello e scrive senza parole. Esattamente, perché... una totale improvvisazione, questa è stata una totale improvvisazione. Poi Vanni Lombardi, sì. Vanni ha fatto una solo incredibile, molto faticoso ma incredibile. Incredibile, anche bravissimo. Ha appena avuto un incidente in bicicletta e se notate suona con un braccio solo. Esatto, sì. Perché ha rotto una ecco clavicola. Ecco il perché di quel fazzoletto al collo. Sta sudando il doppio del normale perché l'ha presa con un braccio solo, mica sì. Semplice. Però è stato bravissimo. E poi c'era Antonio che faceva il basso, vero? È proprio basso col piano, una roba incredibile. Sì, per fortuna su questi strumenti si riesce a splittare. Come si dice splittare? A dividere la tastiera. Sì, a dividere la tastiera, per cui eccolo qui. Eh sì, esattamente. Proprio dare il contorno ossessivo di basso, sì. Che era indispensabile per questo molto pezzo. Rock. Molto rock, molto rock. E poi chiaramente Stefano dava il contorno. Sentiamo ancora il sottofondo rock, molto rock. Fantastico, veramente. Bravissimi, bravissimi. Eccezionale, con un'estemporanea davvero gradita. Ancora più rock. Allora, noi vorremmo stare qui all'infinito perché ormai questa musica ci entusiasma, però purtroppo, come in tutte le cose belle, c'è sempre una fine, ahimè. E ringraziamo Stefano Zeni di essere stato con noi, di averci portato questo suo nuovo lavoro che, ricordo ancora agli ascoltatori, si intitola Passaggi Circolari, e ringraziamo anche Vanni Lombardi, Antonio Principe, grazie che ci hanno fatto compagnia con i loro strumenti. Buon rientro in quel di Brescia, però una promessa, naturalmente, di ritornare se non in radio anche dalle nostre parti. Ce l'auguriamo. Ringraziamo anche appunto Flavio Bilato e Maurizio Calzavara per sempre l'ospitalità, la gentilezza, la competenza, insomma ci fa molto piacere, insomma, partecipare a questo tipo di trasmissione. E ringraziamo voi per l'emozione che ci avete dato stasera, chiaramente una cosa... Un feeling, c'è feeling, come si dice. C'è stato uno scambio positivo e bello. Bello, di energie, bello, di note, di apertura mentale. Che è un altro che anche un pezzo a parentesi. Non era una pubblicità. Senza pura, volerlo, ha citato. Ha citato anche. Pubblicità è sempre Stefano. Ha citato anche la traccia numero 9 del disco Passaggi Circolari. Sì. Va bene, allora rubiamo qualche minuto alla trasmissione dopo. Il nostro ce ne voglia Renato Ferro ce lo dà volentieri per far ascoltare un altro pezzo, però io e Maurizio salutiamo i nostri ascoltatori, vi lasciamo in compagnia di Stefano Zeni. Sì, Antonio, dimmi questa pure. Volta siamo country. Questa bene, volta bene. Country. Fusione country, infatti country. Fusion tree. è un titolo davvero particolare. Se siete curiosi, carissimi ascoltatori, andate proprio sul sito anche per vedere le particolarità dei nomi riservate a queste musiche di Stefano Zeni. Allora, da parte di Flavio Bilato è veramente tutto, un grazie anche a Maurizio Calzavara. Grazie a Flavio, grazie ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che domani avremo un gruppo di Trentino, di Trento, Emanuele, il leader, si chiama Nano il gruppo. Benissimo, allora a domani con i Nano, ci sarà Maurizio Calzavara, e invece lasciamo appunto spazio ai nostri musicisti, ringraziando ancora Stefano Zeni, Vanni grazie. Lombardi, Antonio Principe, grazie a voi. Che sono stati grazie qui a con voi. Noi. Buona continuazione. A presto. Microfoni aperti solo per voi. Vabbè.